Alberto ha ben altro in pentola. In primo luogo ha messo a punto l'operazione Lima e l'ha già eseguita due volte con successo. Alberto si presenta al magazzino attrezzi, chiede una lima e ne sceglie una piuttosto grossa. Il magazziniere scrive una lima accanto al suo numero di matricola e Alberto se ne va. Va difilato da un civile sicuro, un fior di furfante triestino che ne sa una più del diavolo e aiuta Alberto più per amor dell'arte che per interesse o per filantropia, il quale non ha difficoltà a cambiare sul libero mercato la lima grossa contro due piccole di valore uguale o minore. Alberto rende una lima al magazzino e vende l'altra. E infine ha coronato in questi giorni il suo capolavoro, una combinazione audace, nuova e di singolare eleganza. Bisogna sapere che da qualche settimana ad Alberto è stata affidata una mansione speciale. Al mattino, in cantiere, gli viene consegnato un secchio con pinze, cacciavite e parecchie centinaia di targhette di celluloide di colori diversi, le quali egli deve montare mediante appositi supportini per contraddistinguere le numerose e lunghe tubazioni di acqua fredda e calda, vapore, aria compressa, gas, nafta, vuoto, eccetera, che percorrono in tutti i sensi il reparto polimerizzazione. Bisogna sapere, inoltre, e sembra che non c'entri affatto, ma l'ingegno non consiste forse nel trovare o creare relazioni fra ordini di idee apparentemente estranei, che per tutti noi Häftling la doccia è una faccenda assai sgradevole per molte ragioni. L'acqua è scarsa e fredda o addirittura bollente, non c'è spogliatoio, non abbiamo asciugamani, non abbiamo sapone e durante la forzata assenza è facile essere derubati. Poiché la doccia è obbligatoria, occorre ai blocchi il test e un sistema di controllo che permetta di applicare sanzioni a chi vi si sottrae. Per lo più, un fiduciario del Bloc si installa sulla porta e tasta, come Polifemo, chi esce per sentire se è bagnato. Chi lo è, riceve uno scontrino. Chi è asciutto riceve 5 nerbate. Solo presentando lo scontrino si può riscuotere il pane al mattino seguente. L'attenzione di Alberto si è appuntata sugli scontrini. In genere, non sono altro che miseri bigliettini di carta che vengono riconsegnati umidi, spiegazzati e irriconoscibili. Alberto conosce i tedeschi e i Blockeltest sono tutti tedeschi o di scuola tedesca. Amano l'ordine, il sistema, la burocrazia. Inoltre, pur essendo dei tangheri maneschi e iracondi, nutrono un amore infantile per gli oggetti luccicanti e variopinti. Così, impostato il tema, eccone il brillante svolgimento. Alberto ha sottratto sistematicamente una serie di targhette dello stesso colore. Da ognuna ha ricavato 3 dischetti. Lo strumento necessario, un foratappi, l'ho organizzato io in laboratorio. Quando sono stati pronti 200 dischetti, sufficienti per un Bloc, si è presentato al Bloc il tester e gli ha offerto la specialità per la folle quotazione di 10 razioni di pane a consegna scalare. Il cliente ha accettato con entusiasmo e ora Alberto dispone di un portentoso articolo di moda da offrire a colpo sicuro in tutte le baracche, un colore per baracca. Nessun Blockeltester vorrà passare per taccagno o misoneista. E quel che più conta, non ha da temere concorrenti, perché lui solo ha accesso alla materia prima. Non è ben studiato. Di queste cose parliamo, incespicando da una pozzanghera all'altra fra il nero del cielo e il fango della strada. Parliamo e camminiamo. Io porto le 2 gamelle vuote, Alberto il peso della manasca dolcemente piena. Ancora una volta la musica della banda, la cerimonia del Mützenab, giù i berretti di scatto davanti alle SS. Ancora una volta Arbeit macht frei e l'annunzio del capò. Comando 98-62 Häftlinge stärke stimmt. 62 prigionieri, il conto torna. Ma la colonna non si è sciolta, ci hanno fatto marciare fino in piazza dell'appello. Ci sarà appello? Non è l'appello. Abbiamo visto la luce cruda del faro e il profilo ben noto della forca. Ancora per più di un'ora le squadre hanno continuato a rientrare, col trepestio duro delle suole di legno sulla neve gelata. Quando poi tutti i commandos sono ritornati, la banda ha taciuto a un tratto e una rauca voce tedesca ha imposto il silenzio. Nell'improvvisa quiete si è levata un'altra voce tedesca, e nell'aria buia e nemica ha parlato a lungo con collera. Infine il condannato è stato introdotto nel fascio di luce del faro. Tutto questo apparato e questo accanito cerimoniale non sono nuovi per noi. Da quando io sono in campo, ho già dovuto assistere a 13 pubbliche impiccagioni. Ma le altre volte si trattava di comuni reati, furti alla cucina, sabotaggi, tentativi di fuga. Oggi si tratta di altro. Il mese scorso, uno dei crematori di Birkenau è stato fatto saltare. Nessuno di noi sa, e forse nessuno saprà mai, come esattamente l'impresa sia stata compiuta. Si parla del Sonderkommando, del comando speciale addetto alle camere a gas e ai forni, che viene esso stesso periodicamente sterminato e che viene tenuto scrupolosamente segregato dal resto del campo. Resta il fatto che a Birkenau qualche centinaio di uomini, di schiavi inermi e spossati come noi, hanno trovato in se stessi la forza di agire, di maturare i frutti del loro odio. L'uomo che morrà oggi davanti a noi ha preso parte in qualche modo alla rivolta. Si dice che avesse relazioni con gli insorti di Birkenau, che abbia portato armi nel nostro campo, che stesse tramando un ammutinamento simultaneo anche tra noi. Morrà oggi, sotto i nostri occhi. E forse i tedeschi non comprenderanno che la morte solitaria, la morte di un uomo che gli è stata riservata, gli frutterà gloria e non infamia. Quando finì il discorso del tedesco, che nessuno poté intendere, di nuovo si levò la prima voce rauca. «Habt ihr verstanden? Avete capito?» Chi rispose «Jawohl?» Tutti e nessuno. Fu come se la nostra maledetta rassegnazione prendesse corpo di per sé, si facesse voce collettivamente al di sopra dei nostri capi. Ma tutti udirono il grido del morente. Esso penetrò le grosse antiche barriere di inerzia e di remissione, percosse il centro vivo dell'uomo in ciascuno di noi. Kameraden, ich bin der Letzte. Compagni, io sono l'ultimo. Vorrei poter raccontare che di fra noi, gregge e abietto, una voce si fosse levata, un mormorio, un segno di assenso. Ma nulla è avvenuto. Siamo rimasti in piedi, curvi e grigi, a capochino, e non ci siamo scoperta la testa che quando il tedesco ce l'ha ordinato. La botola si è aperta, il corpo agguizzato, atroce. La banda ha ripreso a suonare e noi, nuovamente ordinati in colonna, abbiamo sfilato davanti agli ultimi fremiti del morente. Ai piedi della forca le SS ci guardano passare con occhi indifferenti. La loro opera è compiuta, e ben compiuta. I russi possono ormai venire. Non vi sono più uomini forti fra noi. L'ultimo pende ora sopra i nostri capi, e per gli altri pochi capestri sono bastati. Possono venire i russi. Non troveranno che noi domati, noi spenti, degni ormai della morte inerme che ci attende. Distruggere l'uomo è difficile, quasi quanto crearlo. Non è stato agevole, non è stato breve, ma ci siete riusciti, tedeschi. Eccoci, docili, sotto i vostri sguardi. Da parte nostra nulla più avete a temere. Non atti di rivolta, non parole di sfida, neppure uno sguardo giudice. Alberto ed io siamo rientrati in baracca e non abbiamo potuto guardarci in viso. Quell'uomo doveva essere duro, doveva essere di un altro metallo del nostro, se questa condizione, da cui noi siamo stati rotti, non ha potuto piegarlo. Perché anche noi siamo rotti, vinti. Anche se abbiamo saputo adattarci, anche se abbiamo finalmente imparato a trovare il nostro cibo e a reggere alla fatica e al freddo, anche se ritorneremo. Abbiamo issato la menasca sulla cuccetta, abbiamo fatto la ripartizione, abbiamo soddisfatto la rabbia quotidiana della fame, e ora ci opprime la vergogna. Già da molti mesi ormai si sentiva a intervalli il rombo dei cannoni russi, quando l'11 gennaio 1945 mi ammalai di scarlattina e fui nuovamente ricoverato in KB. Infektionsabteilung vale a dire una cameretta, per verità assai pulita, con 10 cuccette su 2 piani, un armadio, 3 sgabelli e la seggetta col secchio per i bisogni corporali, il tutto in 3 metri per 5. Sulle cuccette superiori era disagevole salire, non c'era scala, perciò quando un malato si aggravava veniva trasferito alle cuccette inferiori. Quando io entrai fu il 13°. Degli altri 12 4 avevano la scarlattina, 2 francesi politici e 2 ragazzi ebrei ungheresi. C'erano poi 3 difterici, 2 tifosi e uno affetto da una ributtante risipola facciale. I 2 rimanenti avevano più di una malattia ed erano incredibilmente deperiti. Avevo febbre alta. Ebbi la fortuna di avere una cuccetta tutta per me. Mi coricai con sollievo. Sapevo di avere diritto a 40 giorni di isolamento e quindi di riposo, e mi ritenevo abbastanza ben conservato da non dover temere le conseguenze della scarlattina da una parte e le selezioni dall'altra. Grazie alla mia ormai lunga esperienza delle cose del campo, ero riuscito a portare con me le mie cose personali: una cintura di fili elettrici intrecciati, il cucchiaio coltello, un ago con 3 gugliate, 5 bottoni e infine 18 pietrine per acciarino che avevo rubato in laboratorio. Da ognuna di queste, assottigliandola pazientemente col coltello, si potevano ricavare 3 pietrine più piccole, del calibro adatto a un normale accendisigaro. Erano state valutate 6 o 7 razioni di pane. Passai 4 giorni tranquilli. Fuori nevicava e faceva molto freddo, ma la baracca era riscaldata. Ricevevo forti dosi di sulfamidico, soffrivo di una nausea intensa e stentavo a mangiare. Non avevo voglia di attaccare discorso. I 2 francesi con la scarlattina erano simpatici. Erano 2 provinciali dei Vosgi entrati in campo da pochi giorni con un grosso trasporto di civili rastrellati dai tedeschi in ritirata dalla Lorena. Il più anziano si chiamava Arthur, era contadino, piccolo e magro. L'altro, suo compagno di cuccetta, si chiamava Charles, era maestro di scuola e aveva 32 anni. Invece della camicia gli era toccata una canottiera estiva comicamente corta. Il 5° giorno venne il barbiere. Era un greco di Salonico. Parlava solo il bello spagnolo della sua gente, ma capiva qualche parola di tutte le lingue che si parlavano in campo. Si chiamava Askenazi ed era in campo da quasi 3 anni. Non so come avesse potuto ottenere la carica di Freezer del KB. Infatti non parlava tedesco né polacco e non era eccessivamente brutale. Prima che entrasse, lo avevo sentito parlare a lungo concitatamente nel corridoio col medico, che era suo compatriota. Mi parve che avesse un'espressione insolita, ma poiché la mimica dei levantini non corrisponde alla nostra, non comprendevo se fosse spaventato o lieto o emozionato. Mi conosceva, o almeno sapeva che io ero italiano. Quando fu il mio turno, scesi laboriosamente dalla cuccetta. Gli chiesi in italiano se c'era qualcosa di nuovo. Egli interruppe la rasatura, strizzò gli occhi in modo solenne e allusivo, indicò la finestra col mento, poi fece con la mano un gesto ampio verso ponente. «Morgen alle Kamerad weg». Mi guardò un momento con gli occhi spalancati, come in attesa del mio stupore. Poi aggiunse «Todos». Todos, e riprese il lavoro. Sapeva delle mie pietrine, perciò mi rase con una certa delicatezza. La notizia non provocò in me alcuna emozione diretta. Da molti mesi non conoscevo più il dolore, la gioia, il timore, se non in quel modo staccato e lontano che è caratteristico del lager e che si potrebbe chiamare condizionale. Se avessi ora, pensavo, la mia sensibilità di prima, questo sarebbe un momento estremamente emozionante. Avevo le idee perfettamente chiare. Da molto tempo Alberto ed io avevamo previsto i pericoli che avrebbero accompagnato il momento dell'evacuazione del campo e della liberazione. Del resto, la notizia portata da Ashkenazi non era che la conferma di una voce che circolava già da vari giorni, che i russi erano a Częstochowa, 100 chilometri a nord, che erano a Zakopane, 100 chilometri a sud, che in Buna i tedeschi già preparavano le mine di sabotaggio. Guardai uno per uno i visi dei miei compagni di camera. Era chiaro che non metteva conto di parlarne con nessuno di loro. Mi avrebbero risposto, ebbene, e tutto sarebbe finito lì. I francesi erano diversi, erano ancora freschi. Sapete, dissi loro, domani si evacua il campo. Mi coprirono di domande. Verso dove? A piedi? E anche i malati? Quelli che non possono camminare? Sapevano che ero un vecchio prigioniero e che capivo il tedesco. Ne concludevano che sapessi sull'argomento molto più di quanto non volessi ammettere. Non sapevo altro. Lo dissi, ma quelli continuarono con le domande. Che seccatura. Ma già, erano in lager da qualche settimana. Non avevano ancora imparato che in lager non si fanno domande. Nel pomeriggio venne il medico greco. Disse che anche fra i malati, tutti quelli che potevano camminare sarebbero stati forniti di scarpe e di abiti e sarebbero partiti il giorno dopo, con i sani, per una marcia di 20 chilometri. Gli altri sarebbero rimasti in Kaabe, con personale di assistenza scelto fra i malati meno gravi. Il medico era insolitamente ilare, sembrava ubriaco. Lo conoscevo, era un uomo colto, intelligente, egoista e calcolatore. Disse ancora che tutti indistintamente avrebbero ricevuto tripla razione di pane, al che i malati si rallegrarono visibilmente. Gli facemmo qualche domanda su che cosa sarebbe stato di noi. Rispose che probabilmente i tedeschi ci avrebbero abbandonati al nostro destino. No, non credeva che ci avrebbero uccisi. Non metteva molto impegno a nascondere che pensava il contrario. La sua stessa allegria era significativa. Era già equipaggiato per la marcia. Appena fu uscito, i due ragazzi ungheresi presero a parlare concitatamente fra di loro. Erano in avanzata convalescenza, ma molto deperiti. Si capiva che avevano paura di restare coi malati. Deliberavano di partire coi sani. Non si trattava di un ragionamento. È probabile che anche io, se non mi fossi sentito così debole, avrei seguito l'istinto del gregge. Il terrore è eminentemente contagioso. E l'individuo atterrito cerca in primo luogo la fuga.